Adesso, nonostante la fuga in avanti verso il futuro di alcuni che affrettano la fine, io vi chiamo a un appuntamento. Tanti si lamentano che non c'è spazio per discutere. Abbiamo almeno tre quarti d'ora per poter discutere. Se le domande le rivolgete a professor Zulehner, dovete o parlare chiarissimo e langsam, oppure c'è la traduzione da il carissimo Renner, che noi ringraziamo già da questo momento. Allora, mani alzate nella preghiera e nella invocazione di qualche interrogativo. Dianic si è prenotato, probabilmente per anche riferirsi al dibattito, al discorso di stamattina. O adesso? Sì. Poi, ecco, il professor Donati, Silironi, scusami, di Lange. Per il momento ne metto quattro. Allora, comincia tu, Dianic. Si prendi, sì. Scusa, alza senza spegnere. Mi sarebbe interessato molto, e l'avevo proposto a Don Sartori, ma non è possibile, non c'è il tempo, ritornare sul problema suscitato stamattina dal professor Donati, sulla identità e autoespropriazione, ma non è possibile. Invece c'è una questione che è ritornata sia nell'intervento di Sartori stamattina che ora di Zulehner, sulla questione della funzione critica della teologia. Ecco, sono d'accordo con ciò che Zulehner diceva ora, che questa attribuzione della funzione critica alla teologia già nella lettura di Metz poteva risuonare in qualche maniera come un atteggiamento di supponenza della Chiesa nei confronti del mondo. Ora, io pensavo, a dire il vero, stamattina piuttosto ad un tipo di rapporto interno alla Chiesa, più che al rapporto Chiesa-mondo in prima istanza, ma piuttosto un rapporto interno alla Chiesa. Allora, in questo senso, così mi sembra che è la esperienza della fede più che della teologia, l'esperienza della Chiesa più che dei teologi, quella di porsi di fronte al mondo con la forza del kerygma, e quindi in qualche maniera con l'atteggiamento di un portatore di giudizio sul mondo, no? In forza del kerygma dell'unico Signore. Allora, in questo senso, credo che la funzione critica della teologia potrebbe svolgersi non tanto come funzione critica del mondo, ma piuttosto esattamente all'opposto, cioè come funzione critica all'interno di una Chiesa che potrebbe, in questa sua posizione kerygmatica, no? E dimenticare, o comunque non avere la capacità di aprirsi al dialogo con il mondo, quasi ritenendo che l'atto kerygmatico come tale sia un atto che segna i confini piuttosto che aprire anche ad una considerazione dei valori che nel mondo ci sono. Quindi qui io penserei alla funzione critica della teologia piuttosto nei confronti dell'esperienza kerygmatica della Chiesa che nei confronti del mondo. E in senso rovesciato, allora, all'interno del discorso teologico stesso, io pensavo, e a questo pensavo stamattina soprattutto, a queste funzioni diverse all'interno della teologia. Allora, certamente la funzione della teologia pratica, che è progettante anche, e deve progettare, deve poter costruire programmi, progetti, tracce di cammino per l'azione della Chiesa, ecco, qui allora la funzione critica della teologia teoretica potrebbe essere a rovescio esattamente, cioè ricordare invece la quella certa impossibilità di progettare anche, o comunque quell'atteggiamento per cui nella fede cristiana uno non possiede il futuro, perché invoca la venuta del Regno, non lo possiede. E allora in questo senso ancora una funzione critica interna alle diverse funzioni della teologia potrebbe tenere viva appunto quella polarità, quella dialettica interna, ecco, di una Chiesa che deve camminare in un certo senso un passo avanti, un passo indietro, un passo a destra, un passo a sinistra, per il rispetto della carica escatologica con tutte le sue tensioni costitutive che essa porta dentro di sé. Grazie Donati, se potesse anche lei abbreviare. Sì, io vorrei essere molto concreto e fare una osservazione chiedendo il parere al relatore, al professor Zulemer, che ha tenuto una splendida relazione. Per essere molto concreto e uscire dai teoricismi di ieri, prendo il problema che lui cataloga sotto il titolo Noi e le generazioni venture, e il rapporto cioè fra le generazioni. Sappiamo che in Europa, se le tendenze demografiche andranno avanti in questo modo, l'Europa sparirà nell'arco di alcune generazioni. In particolare l'Italia è un paese che nel giro di circa 150, massimo 200 anni, se le tendenze demografiche restano costanti, sparisce. E anche un po' strano, diciamo così, constatare che particolarmente i paesi cattolici del Mediterraneo sono crollati rapidamente nella fecondità e nella natalità. In ogni caso ormai tutti i paesi europei sono sotto il livello di rimpiazzamento della popolazione. L'unico paese che ne era ancora un po' sopra è l'Irlanda, che però da qualche anno già è calato sotto il livello di rimpiazzamento. Allora il problema che si pone è quali obblighi questa generazione ha verso le nuove generazioni. Il problema del noi e della generazione venture si pone strettamente in termini di obbligazioni. Io lo chiamo il problema dell'equità generazionale, l'equità fra le generazioni, cioè la giustizia fra le generazioni, dare a ogni generazione ciò che le spetta. Ma cosa spetta alle generazioni fra 100, 150 e 200 anni? Generazioni che non sono ancora nate, che potrebbero non nascere. È un problema molto serio questo, anche di difficile attacco, cioè lo si può attaccare solo molto difficilmente. Il problema cioè è si può porre in questi termini, abbiamo delle obbligazioni verso le nuove generazioni? Perché tutti dicono sì, ma un momento, le abbiamo, perché le abbiamo e quali obbligazioni abbiamo verso le nuove generazioni? Allora a me sembra, e questa è diciamo l'argomentazione su cui chiederei la riflessione del relatore, è che qui precisamente entra ad esempio il rapporto fra sociologia e teologia. Fin qui ho fatto un discorso sociologico, ho detto le previsioni demografiche e sociologiche, stanti i fattori costanti che noi abbiamo, le previsioni sociologiche dicono l'Europa va verso quella direzione. A questo punto si pone l'interrogativo, e la stessa sociologia e la stessa demografia pongono il problema alla teologia, perché si pone il problema dell'etica, cioè dire quale etica verso le nuove generazioni, quali obblighi abbiamo noi verso le nuove generazioni che non sono nate, che obbligo ha un uomo verso un altro uomo che ancora non esiste. Secondo me qui entra Dio, cioè le obbligazioni di una generazione non sono dirette verso la nuova generazione che ancora non esiste, ma sono solo indirette, perché l'obbligo che abbiamo è verso Dio, è Dio che si fa garante del rapporto fra le generazioni. E questo è un argomento non ideologico e neanche in senso stretto teologico, è un'argomentazione di fatto, è una constatazione di fatto, per cui non si tratta, come dire, di esprimere dei giudizi di valore, come potrebbero dire alcuni sociologi, che questo è ideologico, che è un giudizio di valore, è un giudizio di fatto. Cioè io constato che in un'etica laica, nel senso di non religiosa, quella per esempio di David Parfit. Parfit ha ragionato molto in Reasons and Persons proprio su questo argomento: che obbligazione abbiamo verso le nuove generazioni, e da laico, fra virgolette, nel senso di non religioso, di non fondamento religioso nel suo pensiero, ha risposto: nessuna, non abbiamo nessuna obbligazione verso le nuove generazioni. Qui invece io credo che il dialogo fra la sociologia e la teologia può essere prezioso, perché si capisce che solo il ricorso, diciamo, a Dio, cioè la presenza del riferimento divino, quindi teologico, ci chiarisce perché le abbiamo queste obbligazioni, quale obbligazioni abbiamo, che evidentemente, ripeto, non sono dirette ma sono mediate attraverso Dio. Ecco, era un esempio concreto di come sociologia e teologia potevano arrivare. Avevo accennato ieri quel discorso, se ricorda, no? Sì. I futuri. Ah sì, d'accordo, ma questo ricordo che quando avevo 20 anni io ho letto un articolo, già che abbiamo qui un austriaco: nel 2067 morirà l'ultimo austriaco, e invece ne abbiamo già qua uno. Bene, abbiamo adesso da sentire Donato Filironi, filosofo. Torniamo in su verso le riflessioni. Allora io mi permetto di dire qualche cosa in rapporto anche a quanto ho sentito questa mattina, non ero presente ieri, la relazione per Soldianich. E a questo proposito sono rimasto molto sorpreso da una cosa, cioè che buona parte di quanto ho ascoltato ho avuto l'impressione che, non per carità, che l'avrei potuto dire anch'io, non mi si fraintenda, sarebbe stata dicibile anche da un punto di vista di riflessione non teologica, pare a me, ma laica. In che senso laica? Cioè di pura riflessione pensante di grande domandare. E questo a me piace molto, lo dico quindi non in un senso di deprezzamento, ma di apprezzamento. Se avevo colto l'impianto, la distinzione iniziale del futuro dominabile da una parte e dell'indominabile dall'altra, tra poco dirò, mi pare iscritta radicalmente nel mondo greco, nella grande tragedia. Poi il discorso della previsione, che diventa anche discorso di paura, discorso di rimozione della paura, eccetera. E poi il discorso della progettazione. Che cosa voglio dire? Partirei da quella che, a mio avviso, magari sono fuori luogo, ma a mio avviso è la domanda finale, almeno per me, in rapporto al tema del futuro. E a me pare che la domanda finale sia: com'è costruibile un destino reale di libertà per l'uomo? Questa è la domanda a cui tutti siamo chiamati. E io vorrei dire: ma che cosa ha da dire la teologia a questo proposito? E dall'altro lato, che cosa ha da dire la sociologia a questo proposito? Però io non sono né teologo né sociologo, mi permetto di fare qualche riflessione a margine. Ecco, secondo me il problema del futuro è il problema del destino, che è essenzialmente il problema della morte, del guardare innanzi. E il problema della morte è un problema fondamentale. Nel mondo greco, se penso a Eschilo, il Prometeo è incentrato sul tema della morte. Prometeo è il salvatore dalla morte. Quindi, dove si cerca di elaborare il tema del futuro in questo senso molto forte di destino che la morte, si dicono due cose fondamentalmente. Primo, che Prometeo toglie la prevedibilità del futuro, toglie la prevedibilità della morte, del destino in questo senso negativo. E questo è ripreso anche da Platone. Secondo, che per rendere sopportabile in qualche modo il futuro, consegna all'umanità delle cieche speranze, tu flas el pidas, cioè consegna, alla fine se si guarda bene, delle certezze, delle rassicurazioni. Cieche speranze è una doppia negazione. Allora a me nasce inizialmente il problema di dire: ma come affrontare questo tema che il domani che ciascuno si trova dinanzi? Sentivo questa mattina, molto bello da Dionigi, c'è un'indicazione della distinzione tra un futuro dominabile e indominabile, con altre parole, ma mi pareva questa l'intuizione. Ma anche questo, io dico, la tradizione greca, se penso all'Antigone, è tutta giocata su questo. Antigone e Creonte nella tragedia sono esattamente la rappresentazione Antigone del futuro indominabile, di un futuro totalmente aperto che però consegna la morte. nella esecuzione concreta, come la croce di Gesù Cristo, dall'altro lato abbiamo Creonte che invece la progettabilità programmabile dell'uomo, un futuro di piena e sola razionalità. Perché questo rammentare queste due figure? Perché mi sembra che lo specifico che si può cogliere in una lettura di quell'alto testo Sofocleo è questo, che Antigone sospende l'etica, così come dirà Chiron di timore e tremore, cioè c'è una sospensione dell'etica, l'etica non è l'ultima cosa. Allora se c'è una sospensione dell'etica, il problema, la mia domanda, che dicevo risolutiva ma l'avevo anticipata all'inizio, come costruire un destino reale di libertà per l'uomo, mi pare giocato qui. Oggi, guardando innanzi, il problema del futuro è un problema di come costruire l'ethos. Quale ethos? Un ethos di rassicurazioni o un ethos, come si comincia a dire, di sradicamento? Un ethos di pura identità, e questa parola l'ho sentita anche questa mattina in qualche intervento, oppure un ethos non che nega l'identità, ma nega quella identità che è stata storicamente costruita nella nostra tradizione per tentare strade diverse, cioè quelle strade che non sono le cieche speranze, cioè le rassicurazioni prometeiche. Ecco, a me pare che oggi, in futuro, guardandolo innanzi, ci chiama in fondo a questa alternativa. O un ethos radicato in certezze solide, ma sono forse cieche speranze, perché poi dopo c'è sempre il gioco di quell'espressione, o un ethos di sradicamento. È il problema del progetto. Progetto. Certamente qui si getta avanti qualche cosa, ma c'è anche un già gettato, c'è qualcosa che anche già. Io credo che, non vorrei dire cose che non mi appartiene, che la tradizione teologica in questo è molto forte, il revelatum che è sempre un già e un non ancora, però schematizzando in due battute, anche se così impoverisco, voglio dire, mi sembra che quell'etos di radicamento, che è la sospensione dell'etica e che è Antigone, a me pare chiami a che cosa? A tenere presente che forse non c'è solo la possibilità di un destino errabondo o di un destino della necessità, che sono i percorsi della nostra storia, ovviamente schematizzati, ma c'è anche un destino di libertà. Ho usato queste tre parole per una ragione precisa, perché corrispondono alle tre categorie della modalità kantiana, dove questa mattina mi è piaciuto molto quando è stata ricordata la possibilità, però attenzione bene, quello che diceva l'ultimo Patterson, cioè che la possibilità da sola forse è troppo lieve sulla realtà, così come la necessità forse è troppo forte e coercitiva. La libertà forse sta nella realtà, ecco la categoria della realtà, riscoprire questa dimensione. Direi anche che un destino semplicemente errabondo è un destino alla Edipo, di chi segue senza vedere, senza sapere dove poi la cecità. Dall'altro avremmo forse Cassandra per la necessità impropria. Ma gli interrogativi allora specifici quali diventano? A me sembra che diventino quali le condizioni di possibilità di un destino reale di libertà. Allora, come attivare concretamente? Ma attivare nel senso di ricercarne le condizioni di possibilità. Quali le condizioni di possibilità di uno sradicamento e di una incertezza? Come la fede può essere, nel teologico, veramente speranza e non cieca speranza? Ecco, mi permetterei di aggiungere solo che forse tre ambiti potrebbero costituire delle piste, cioè un ristudio serio del pensare non, come dire, come ricerca di nuovo di sicurezze e certezze, ma come fedeltà assoluta a un sapere di non sapere, cui forse la nostra tradizione, né filosofica, né teologica, né scientifica, è mai stata forse fedele fino in fondo. Dall'altro lato, un approfondire l'agire e le sue condizioni di possibilità, e qui le grandi categorie dell'abbandono e della lotta insieme, e poi un approfondimento serio, e poi la terza domanda delle domande kantiane, la speranza, cioè la preghiera, che cosa essa può voler dire, uno star sul limite pensante di ciò che l'uomo è veramente. Aggiungo solo come battuta finale che se quello che ho detto potrebbe andare, o forse oso dire così, in analogia laica, ma uso la parola questa parola apposta in rapporto a quanto ho sentito questa mattina, allora mi chiedo, ma lo specifico, l'oltre, può apparire banale, però mi piaceva ricordare che forse una ripresa anche del capitolo 15 della prima Corinzi, a mio modo di vedere, non ci starebbe male. A me piaceva molto soprattutto la ripresa in questo senso assolutamente radicale della lettura barthiana, tenendo però anche presente quello che in quel commento Barth dice, cioè che l'agape in fondo è già la restituzione all'uomo di attributo divino. Grazie di questo intervento che in un convegno di teologia e sociologia ha inserito anche il discorso filosofico antropologico radicale. Di Lenge, lei mi dica il cognome, allora oggi sembra che abbiamo vissuto un po' la grande paura. Da una parte la cosiddetta frantumazione della Chiesa fino al punto che se ne voglia fare di necessità virtù, e per cui ha risposto uno dei nostri relatori sociologi che è incomprensibile che si possa conservare l'identità ecclesiale di fronte a una autodistruzione, ecco, comunque se ne pensi. E poi invece poi c'è stato l'altro aspetto di questa diminuzione crescente, ecco, un po' uno degli argomenti di Dianici, ecco, delle forze trainanti, le cosiddette vocazioni, i pastori. Ecco qua, io ho pensato subito alla tensione che esiste nell'evangelizzazione tra i due poli, proselitismo andate, insegnate, e poi sarete miei testimoni. Finché la nostra prima e seconda generazione, anche sotto le persecuzioni, che i due poli, proselitismo e testimonianza, andavano insieme, non divisi, allora si è creata una certa cristianità cui noi ci riferiamo ancora. Quando poi è venuto il cristianesimo religione di Stato sotto Teodosio, non parliamo del Sacro Romano Impero, quando poi c'è stata l'irruzione dei barbari nel cristianesimo, che se per Orosio era un arricchimento, perché ecco, la Chiesa introduceva nel cristianesimo tanti barbari, ma sappiamo che a quel tempo c'è stato proprio quello che poi si è ripetuto sotto un altro aspetto a tempo di Lutero, regni e il suo religio, ecco, ebbene si sapeva che era stata una conversione di massa tribale. E noi siamo ancora, possiamo dire, gli eredi sia dei barbari che sono entrati in massa nel cristianesimo, sia del Sacro Romano Impero, e adesso ci accorgiamo che dobbiamo ritornare al Pusillus Grex, dove il cristianesimo diventa una scelta vocazionale. Ecco qua. Ma ecco, noi adesso ci troviamo poi in ambito ecumenico, dove siamo obbligati a tendere la mano. Abbiamo cominciato tra noi cristiani e sappiamo che prima si parlava del ritorno dei fratelli separati, adesso si parla di un incontro e non sappiamo come e quando verranno, non certamente come abbiamo segnato nei tempi passati. Ma adesso sappiamo che il cristianesimo si va veramente frantumando. Io ricordo quando tornai alla fine del 70 dalle missioni, incontrandomi con dei missionari che venivano dalle culture asiatiche, loro erano ormai disperati che buddisti, induisti potessero diventare un giorno cristiani, anzi assistevano a un revival delle religioni asiatiche che più o meno erano state sotto il pugno colonizzatore dell'Occidente cristiano, che avevano ripreso coscienza dei loro valori. Oggi, vedete, specialmente nel dialogo con gli ebrei, ebbene oggi non si può, anzi si è proibito quasi di parlare di proselitismo, ma di dialogo per scoprire i valori, ecco, delle altre religioni. Ecco perché c'è io già ho accennato, una rivalorizzazione dell'alleanza di Noè, ecco, che non è stata mai, c'è quella adamica, ecco, quella di Noè, in cui si inserisce quella ancora più particolarizzata del popolo ebreo di Abramo, di Mosè, e poi quella nostra. Ma intanto i popoli, e sono la maggior parte, che non entrano in queste alleanze mosaiche cristiane, restano tali e quali. Siamo noi che non sappiamo, ecco, cioè riusciamo a dialogare unicamente cercando i seminaverbi, scoprendo veramente in queste popolazioni. Io una volta mi trovai a Nepal, a Kathmandu, e domandai a un ragazzo che sapeva tutte le parolacce napoletane dei turisti che passavano, ma mai sentito parlare di Gesù Cristo, forse non lo conoscerà mai, vedete. Che colpa hanno tutti questi popoli che non hanno conosciuto Cristo, anche perché i nostri missionari non sono mai arrivati? Per cui ecco qua la conclusione. Noi dobbiamo arrivare, ecco, perché matematicamente a livello di proselitismo non converteremo mai, non lo so, si parla oggi che quando verrà il Messia si domanderà se c'è ancora fede, chi lo sa nel Papa di allora se ce l'avrà. Bene, e allora ci domandiamo oggi, ebbene, come noi dobbiamo continuare questi due impegni, testimonianza e proselitismo, docente e testimoniale. E noi siamo obbligati a ritornare al Pusillus Grex, a fare del cristianesimo veramente una vocazione. E solo così, ecco, noi possiamo ravvivare il cristianesimo, perché veramente si sta sgretolando anche sotto l'aspetto culturale, anche perché ieri facevo appello a un dialogo interculturale, perché la religione, non dimentichiamo, è forse soprattutto cultura. Grazie. Il professor Roberto Cipriani, della Sapienza di Roma, mi pare che sia della Sapienza, sì, di Roma, ha chiesto la parola. C'è? Venga, venga. Professor Cipriani, non c'è? Ha lasciato un biglietto? Sì. Allora, vedo la signora, dica il nome, ricordo il suo nome, scusa. Iellici, perché ha un nome difficile da pronunciare. Grazie, sì, Iellici. Iellici. Sì, solo una brevissima nota. Si è parlato molto, anche perché si è parlato se non di tutto proprio, quindi forse c'è anche posto per questa breve considerazione, che d'altronde mi sembrava anche implicita nel discorso del professor Ardigò questa mattina. Ecco, la formazione dell'essere umano e della società ruota attorno al simbolico. E oggi il momento presente in cui viviamo è un momento di crisi del simbolico, in una ricerca di nuovi riferimenti che coinvolge inevitabilmente anche il futuro. E io credo che proprio su questa dimensione simbolica, generativa sia del sociale, della società, che della religione, che sociologia e teologia possono trovare un momento di incontro comune, di analisi, in definitiva di ermeneutica. Dimensione simbolica che presuppone indubbiamente un'epistemologia relazionale e che è anello di congiunzione tra immanenza e trascendenza, tra un razionale e un superrazionale, e che in definitiva rappresenta anche quel surplus che può dare alla storia la sua possibilità di continuare trasformandosi. Grazie. Cipriani, vuole interferire? E adesso vedremo, perché ne ho già una lista. Devo tener conto anche di una certa stanchezza di tutti, per cui per le 5, ecco, vorrei dare la possibilità al pubblico di sortire da questa fatica. La ringrazio di essere venuto. Sì, no, grazie. No, io sono un po' imbarazzato perché da molti anni questa tematica di sociologia e teologia è abbastanza presente a noi. Vedo lì sul fondo Dario Zadra, che nel 1969 pubblicava un'antologia dal titolo Sociologia della religione, con dentro teologi, antropologi e sociologi. Nel 1973 la Cittadella Editrice pubblicava questo prezioso volumetto, che poi non ha avuto certo il seguito che invece ha avuto Kaufman, che ha pubblicato un volume che è il prendere per in questo settore. E poi c'è quest'ultimo di Matt e Steinkamp, che affronta la tematica delle scienze sociali e teologia pratica. Ma quello che io voglio dire è che forse sarebbe bene riandare un attimo a studiare certi classici che abbiamo un po' dimenticato. Faccio un esempio, la scuola di Francoforte. Ma la scuola di Francoforte non si spiega in termini sociologici se non teniamo conto della frequentazione teologica che avevano questi studiosi. La loro formazione ebraica indubbiamente ha avuto un suo peso, anche al di là delle posizioni che poi hanno assunto con le varie dialettiche negative dell'illuminismo, della non negabilità dell'esistenza di Dio e via dicendo. E quindi mi pare che tutto sommato non è che è la prima volta, anzi è l'ennesima volta. Io ho cominciato così. È l'ennesima volta. Ieri. E ancora vorrei qui segnalare finalmente l'uscita in Italia di un volume che secondo me è un classico, che va considerato proprio per questa duplice attenzione al discorso filosofico e teologico da una parte e sociologico dall'altra. Cioè abbiamo tradotto in Italia Zimmel e i suoi saggi di sociologia e religione, dove il discorso del confronto fra teologia, filosofia e sociologia è largamente presente. E a proposito di Zimmel, vorrei proprio segnalare una sorta di spartiacque, ma che poi spartiacque non è, perché poi la montagna è fatta di due versanti, quindi è l'unica montagna, no? Rappresentato dal fatto che per Zimmel, per esempio, la sociologia dovrebbe più interessarsi della religiosità, mentre teologia, filosofia dovrebbero interessarsi della religione. Allora, a questo punto ci rendiamo conto che non è più questione di dire la teologia non è scienza, la teologia è scienza. Dico, è scelta di qualcos'altro di diverso rispetto a quello di cui invece si interessano i sociologi. Il fatto è che ci sono degli steccati, e ci sono degli steccati anche di tipo strutturale. Io riferisco in pubblico proprio la volta di un episodio capitato diversi anni fa nella sagrestia di San Giovanni Laterano, quando Giovanni XXIII aveva appena terminato di celebrare, e un mio carissimo collega mi si avvicinò presentandosi appunto come sociologo, e Giovanni XXIII, bonario com'era, papale, gli disse: ma che sociologia, dobbiamo tornare alla sociologia di San Pietro. Qual è il problema? Il problema è che Angelo Giuseppe Roncalli, come tanti altri fra di noi, che magari hanno anche studiato in istituti religiosi, non hanno avuto una formazione nel campo delle scienze sociali, ragione per cui San Pietro è un sociologo. Allora, in termini concreti, cosa intendo dire? Intendo dire che anche sul piano, per esempio, della ratio studiorum, occorrerebbe dare alle scienze sociali uno spazio adeguato, in modo da consentire anche i confronti fra teologi da una parte e sociologi dall'altra, e non temere, come si è temuto sinora, che la sociologia fosse uguale a marxismo. Credo che questo discorso sia ormai largamente superato. C'è stato oltretutto un confronto, ma stranamente su che cosa? Sulla secolarizzazione. Proprio su questo si sono confrontati più spesso sociologi e teologi, scambiandosi a vicenda l'accusa di aver inventato il termine, che poi alla fine si scopre essere tutto sommato una montatura, tant'è che fra qualche mese a Laterano si organizza un convegno, sentite, provocatorio, l'eclissi della secolarizzazione, altro che eclissi del sacro. Un'ultima cosa, perché in Italia non vi è un luogo del tipo di quello che abbiamo sperimentato oggi, in cui gli studiosi delle diverse scienze applicate al fenomeno religioso si confrontino? Negli Stati Uniti, per esempio, c'è la Society for the Study of Religion. Da noi in Italia, mi pare che al di fuori di questa occasione offertaci pregevolmente da voi, non ce ne siano state tantissime altre. Un'ultima considerazione, secondo me dobbiamo un attimo metterci d'accordo sul problema della distinzione fra ciò che è descrittivo in termini scientifici e ciò che diventa prescrittivo. Allora, probabilmente se un attimo chiariamo i termini di questi due concetti, non sarà difficile da una parte accettare la sociologia come scienza non pericolosa e dall'altra parte la teologia come scienza tout court. Grazie moltissime della sua Giuliati, De Sandro, poi c'era forse Zadra? No, chi è che voleva chiesto la parola? A lei, si chiama? Beh, dopo comunque dipende da chi adesso questi parleranno. Avevo deciso di non parlare, perché stamattina mi ero scritto delle cose, poi... E volevo dire solo una breve... mi sono ritrovato tra le mani, perché pensavo di avere tempo di darci un'occhiata, i risultati dell'ultima indagine che abbiamo fatto sui santuari. È uno dei miei campi di ricerca, tanto per intenderci dunque Sant'Antonio, Padre Leopoldo, Lourdes, Loreto, Fatima, Međugorje, Our Lady of the Snow, Częstochowa, Guadalupe, adesso stiamo cominciando, sì. Montreal. Ecco, tanto non tanto per far intendere che non sono rilievi soltanto su qualche santuario. Ecco, e la cosa interessante è che di nuovo lo stiamo iterando con gli stessi strumenti di 20 anni fa, cioè si fa la tecnica del panel, seguendo tutto il tragitto che il messaggio fa, cioè non è soltanto con i questionari. Per Sant'Antonio, quello che la gente dice che apprezza nella sua vita è che leggeva nel cuore ed era umile e buono. Leggeva nel cuore ed era umile e buono. E quello che la gente chiede nei confronti del santuario, cioè dell'incontro con l'interlocutore sacro, è di avere la possibilità di essere ricaricati, perché la gente è molto scoraggiata, ma è un problema di sempre, e di avere la capacità, tramite l'immedesimazione e l'ascolto nei loro confronti del personaggio sacro, di riuscire a trasformare in qualche cosa di positivo quello che loro hanno. La vita di solito ci permette poche scelte, la maggior parte delle nostre potenzialità resta in evasa. Potrebbe dire, ecco, la politica o la teologia o la mistica del carciofo, si potrebbe dire. Cioè, noi in dialetto diciamo, lo dico sempre, sì, quelli che sono con me ne ridono, però con questa maniera sono riuscito con nessuna risorsa a portare avanti un discorso con una certa consistenza. Cioè, praticamente era quando Pinocchio all'inizio ha fame, no? Che rifiuta il torsolo e la pelle della pera che il povero Geppetto aveva per sé. Quando poi la fame, allora mangia anche quella e scopre che è forse ancora più nutriente che la polpa. Nel carciofo, il fondo di carciofo è un torsolo, anche quello, però è la parte migliore. Non sarebbe, proprio per essere prima di tutto in dialogo col presente, in vista del futuro, non sarebbe possibile attuare prima di tutto questa strategia? Evidentemente questo comporta un cambiamento abbastanza copernicano nel dare alla parola scritta, alla comunicazione, ai convegni, ai libri scritti, il carattere di mediazione su un vissuto e anche riflesso. Qui sarebbe un po' tutto da riflettere su quella che è un po' il nostro problema. Prima, non avendo soldi per fare una ricerca, sostituiamo un bel convegno alla ricerca da farsi. Può essere importante come fondazione di un percorso, ma il percorso bisogna pur farlo e appurarlo. Al professor Donati vorrei ricordare che 20-30 anni fa chi poteva pensare che Irlanda e Veneto sarebbero, l'Irlanda forse c'è in cammino, ma il Veneto ci è già arrivato, il paese della famiglia abbondante per eccellenza sarebbe arrivato ai tassi più bassi di natalità? Chi ci dice che questo non possa essere un pericolo anche per le nazioni che adesso scoppiano di bambini, che il venire a contatto con una nazione, con nazioni già, chiamiamole, secolarizzate, potrebbe in breve tempo indurre atteggiamenti analoghi anche dalle loro parti? Già lo stiamo vedendo, che quelli che sono venuti qua, anche i musulmani, si orientano verso queste scelte. Per cui la domanda di quello che potrebbe succedere dopo i 20 anni, in un futuro non immediato, è chiedere che cosa è che ci fa cambiare opinione rispetto a un determinato bene. Penso che in termini di futurologia è un discorso che potrebbe essere abbastanza interessante, però certo bisognerebbe prima avere dei veri e propri investimenti per la ricerca. Purtroppo quando ci sono delle crisi non si investe per il futuro e per i figli, ma subito si taglia i soldi per la ricerca, per la progettazione. Santa Madre Chiesa a questo, per fortuna, è già sicuro, perché soldi per la ricerca in fondo non ne ha mai investiti, per cui non c'è questo pericolo. Allora in questo caso però potremmo chiedersi, tirandosi sulle maniche, che cosa potremmo fare perché quel parecchio, quelli che c'è già, perché c'è molta gente che fa ricerca al di fuori delle istituzioni ufficiali, ecco, come potrebbe essere inventata una strategia e una prassi della comunicazione, della comunione, del confronto, dell'utilizzo insieme con il prossimo vicino, perché io a volte ho l'impressione che si parli tanto del prossimo lontano perché è astratto, perché è comodo, ma il vero incontro con il prossimo con il quale conviviamo, il mettere insieme, mettere in comune le nostre cose, non potrebbe essere una soluzione molto importante e che senza tanto andare a sospirare un futuro forse improbabile ci permetterebbe di essere molto più capaci di produttività, molto più efficaci nel nostro presente? Grazie. De Sandra? Vorrei... Vincenzi etwas erklären, no? Später. Sì. Aspetta, wir sind ja... Ganz kurz. Diamo anche 2 minuti al professore perché possa eventualmente chiarire. Sì. Due problemi legati immediatamente alla relazione del professor Zulehner, ma anche a riflessioni che sono emerse oggi. Quando si parla della necessità di maggior connessione, di maggior relazione, di maggior solidarietà, sono le identità, solo che erano delle identità generiche, il cristiano, o particolaristiche, il cristiano in questa mia parrocchia con questo mio prete, no? Allora, questo tipo di identità, o generica, olistica, generica nel senso proprio di genere, oppure particolaristica, adesso resistono molto a passare a una nuova idea di identità, che invece è un'identità che deve misurarsi con l'identità dell'altro. Allora la domanda di solidarietà che noi solleviamo fa fatica a misurarsi con le vecchie identità, non so se rendo l'idea, cioè con identità generiche. Un appello alla solidarietà non funziona, e infatti la gente è fuggita da quella genericità, ma la solidarietà nuova va costruita non solo chiedendola agli altri, ma anche cominciando a costruirla dentro le realtà della Chiesa, che sono identità chiuse e particolaristiche. Prima cosa. Quindi il discorso dell'identità che abbiamo sollevato stamattina vi pregherei di considerare che è un problema gravissimo, tutt'altro che risolto all'interno della Chiesa Cattolica, che funziona ancora per identità generiche, che non ha ancora chiarito dell'identità di ruolo, delle distinzioni, delle differenze dell'identità di ruolo. Chiudo questo primo tema. Secondo problema. Il professor Zulehner, io avevo già visto il suo libro, giustamente, diciamo, affronta dei problemi molto grossi da un punto di vista demografico, da un punto di vista economico, da un punto di vista dei rapporti tra le nazioni, eccetera, eccetera. Qui sotto però c'è un discorso importantissimo che è legato appunto al problema di quale sia, mi si passi la sinteticità, il codice spirituale che può farsi comune a religioni tanto diverse o a nazioni tanto diverse. Secondo me oggi abbiamo parlato di teologia, abbiamo parlato di sociologia, ma abbiamo parlato poco di quello che si potrebbe costruire. Pier Cesare Bori lo chiama per costruire un consenso etico tra culture, io lo chiamerei un consenso spirituale tra culture, che è più ampio di un discorso tra religioni, è un discorso che riguarda grandi tradizioni sapienziali, pensiamo all'Oriente, al buddismo, al taoismo, all'induismo, ma riguarda anche tante esperienze individuali, in cui anche al di qua dell'opzione religiosa vi è una richiesta di senso dell'esperienza, e di esperienza di senso, si scusi l'apparente bisticcio di parole, che invece apre un problema proprio di importanza dello spirituale al di sotto dell'affioramento dei comportamenti economici, dei comportamenti demografici, perché altrimenti non riusciremo a capire perché la gente sta meglio e perciò non fa figli, cioè non progetta la stessa esperienza di benessere per un altro figlio, invece ne nega la possibilità. Grazie Virginia Membe, siamo alla fine e allora diamo vivi il minuto. Drei minuti. E scabbia. Mi dispiace per coloro che hanno alzato la mano. Es gab eine große Zahl sehr schwieriger Themen und ich greife jetzt wirklich nur ungerechterweise das eine oder andere heraus. Zum Beispiel jetzt schon die erste Frage vorhin von Ihnen, Herr Donati. Ja? Die Frage, was folgt aus einer solchen erkennbaren Prognose? Ich würde für mich einmal zunächst sagen, so aus meinen Begegnungen mit futurologischer Forschung, dass es eine Self-Fulfilling und daneben eine Self-Destroying Prophecy gibt. Das heißt, die erste entscheidende Frage wird sein, wenn diese Prognose stimmt, will ich, dass sie eintritt oder nicht? Ich denke, darüber muss zunächst mit allen Beteiligten verhandelt werden. Mit den Bevölkerungen, mit der Elite, mit den Politikern, mit der Ökonomie. Wollen wir diese Entwicklung oder nicht? Und ich denke, es kann natürlich dann viele gute Gründe geben, eine solche Entwicklung nicht zu wollen. Es wäre schade, gäbe es keine italienische Kultur mehr, weil das eine Realität in der Schöpfung ist. Es wäre vielleicht weniger schade, gäbe es keine Wiener mehr. Aber man muss entscheiden, was will ich für Ziele? Und das ist ein sehr gutes Beispiel jetzt, dass die heutige Futurologie sich nicht nur für Prognosen interessieren kann, die eine mögliche und wahrscheinliche Zukunft angeben, sondern dass die viel schwierigere Frage geworden ist nach der wünschenswerten Zukunft. Also wollen wir als Volk, als Menschheit vielleicht überhaupt, sagt Holmar von Dietfurt, aussterben oder nicht? Und dann gibt es sehr viele Überlegungen, die wir jetzt nicht führen können, aber ich wollte nur sagen, diese Offenheit der Prognose und die Notwendigkeit, prognoseübergreifende Kriterien zu finden, wofür wir uns entscheiden. Und da kann die Ethik, da kann die Theologie in diesem großen Gespräch mitwirken, aber nicht die Theologie alleine. Ich glaube, dass sehr wertvoll und in dieselbe Richtung Ihre letzte Frage ging. Ja, die Frage nach der Spiritualität, die ja wiederum eine Frage nach diesen Hintergrundoptionen ist. Was sind die Wichtigkeiten, die Prioritäten für unsere allgemeinen Entwicklungen? Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich zu Recht die Vermutung einer Reethisierung, Sie würden sagen, des Wiedergewinnens von Spiritualität in allen profanen großen Entscheidungen. Musterbeispiel die Medizin. Die Bioethik, Musterbeispiel der atomare Bereich. Und ich glaube, es gibt viele politische Fragen, die in zunehmendem Maße reethisiert werden. Aber nicht im Sinn einer fundamentalistisch-besserwisserischen Ethik, wo man vor der Kenntnis der Entwicklung schon das Ergebnis hat, sondern einer dialogischen Ethik, die sehr genau an der Entwicklung der Probleme dran ist. Das ist die eigentliche Kunst. Ich möchte zu den anderen großen Themen eigentlich nichts sagen. Wir und die nächste Generation, eine ganz wichtige Frage. Oder die sehr schöne Überlegung zur Bedeutung des Symbolischen. Ich möchte nur gerne hinzufügen, dass es nicht nur die Begegnung zwischen dem Rationalen und dem Irrationalen, sondern zwischen dem Individuum und dem Kollektiven ist. Das ist vielleicht die andere Schnittstelle für die Symbolwelten, weswegen die Rituale auch der alten Religionen selbst bei Atheisten gewünscht werden. Das ist eine spannende Frage in der Analyse, warum wollen Atheisten unsere religiösen Symbole zu 25% bei der Beerdigung, zu 15% bei der Geburt, das kann man nur so symboltheoretisch gut verstehen. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, danke, dass Sie mir viel zu große Fragen gestellt haben, die ich gar nicht beantworten kann. Danke, danke.